riprendiamo la linea quando sono le 11:31 minuti primi, sempre dalle 87.900 di Radio Onda Rossa, e al telefono abbiamo un compagno che si trova a Magliana per un picchetto antisfratto che è in corso di svolgimento. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e tutte. Ciao. Sì, siamo qui a Via dell'Impruneta 27, nel quartiere della Magliana. Da questa mattina alle 8 si sta svolgendo un picchetto antisfratto perché c'è insomma il rischio che una famiglia venga buttata fuori. Si tratta di una famiglia di persone, di inquilini senza titolo, e sono giovani, lui ha il 100% di invalidità e hanno uno sfratto esecutivo. Siccome qui la situazione italiana è una situazione complicata, nel senso, queste sono case dell'INPS, erano case dell'INPDAIA, poi passate all'INPS e attualmente gestite dalla famigerata Romeo Gestioni. E diciamo, come insomma molti e molti già sanno, le case degli enti non hanno delle modalità di accesso definite, nel senso che se uno vuole fare domanda per andare a abitare una casa dell'INPS di fatto non può. Per cui, se dipendesse dalla gestione INPS, queste case, questi appartamenti sarebbero per lo più vuoti, cioè nel senso che anche qualora se ne si svuota un appartamento non viene assegnato, non c'è una lista di accesso come può esserci per quanto riguarda case del comune o dell'ATER. Per cui noi stiamo portando avanti qui nel quartiere da tempo una battaglia perché ci sia una sanatoria per tutti gli inquilini senza titolo, per cui tutto ciò è anche in qualche modo legato alla difesa del patrimonio pubblico, perché questi appartamenti, come tanti altri delle case degli enti dentro questa città, sono in corso di dismissione e dovrebbero essere venduti. È successo in altri quartieri di Roma, non è che vengono venduti sempre, anzi quasi mai, agli inquilini, sia perché appunto gli inquilini senza titolo non hanno di per sé diritto ad acquistarlo, anche qualora ce l'avessero, spesso ci sono una serie di impedimenti burocratici messi apposta per i quali poi appunto gli inquilini non si trovano nella condizione di poterli acquistare, per cui poi vengono venduti all'asta. C'è insomma il caso di Cinecittà, dove ormai sono anni che va avanti queste vicende, gli appartamenti vengono venduti all'asta spesso con l'inquilino senza titolo dentro, che poi si trova a affrontare lo sfratto non più con l'INPS ma con un proprietario privato. Qui a Magliana non siamo ancora arrivati a questo, per cui si sta costruendo un comitato che vada poi a aprire un piano residenziale con l'ente, proprio per impedire che avvenga tutto ciò e che con una sanatoria e con una serie di altri provvedimenti che stiamo proponendo come comitato si vada a garantire il diritto di tutti a un tetto sopra la testa. Ovviamente il primo passo di tutta questa vicenda è impedire fatticamente, fisicamente, che vengano eseguiti questi sfratti, che poi tecnicamente sono sgomberi perché gli inquilini senza titolo sono occupanti a tutti gli effetti. E oggi si sta svolgendo questo picchetto, è molto partecipato, ci sono 70 persone all'incirca, molto determinato, è passata una volante dell'ufficio sfratti del commissariato San Paolo, ma non si è fermata, adesso siamo in attesa che arrivi anche l'ufficiale giudiziario. In pratica, quindi, questi sfratti, hai raccontato in maniera molto chiara insomma qual è il procedimento che in linea di massima viene eseguito. In questo momento però, come tu dicevi, ancora non sono stati venduti questi appartamenti, quindi lo sfratto lo sta richiedendo proprio l'istituto della previdenza pubblica. Sì, esattamente, l'INPS non gestisce direttamente queste pratiche, le ha appaltate alla Romeo Gestione, che insomma è una realtà molto più che chiacchierata e discussa, nel senso che il titolare, il signor Romeo, è stato anche in carcere, pure inquisito per tutta una serie lunghissima di vicende molto molto losche, insomma, legate a traffici e gestioni illecite, per cui insomma hanno una gestione molto discutibile. La loro il loro primo obiettivo per questo, in questi ultimi mesi, che appare chiaro, è quello di fare cassa, nel senso che stanno mandando a tutti e tutte, chi ha lo sfratto, chi non ha lo sfratto, chi è inquilino senza titolo, chi ha il contratto e chi non ce l'ha, stanno mandando richieste di soldi per le cose più disparate, oneri accessori, conguagli, le cose più incredibili, per cifre che variano tra le poche centinaia di euro a 70.000 euro. Per cui, diciamo, questo è il clima che c'è dentro Magliana, è che sono mesi che arrivano a pioggia queste lettere di richieste di soldi, di quantità assurde, e per cose anche abbastanza, diciamo, abbastanza ridicole, insomma. Oltretutto non puoi chiedere il pagamento, cioè non ha senso dal punto di vista anche amministrativo, secondo me, di chiedere il pagamento degli oneri accessori a un occupante senza titolo, perché te dovrebbe dare, se tu non gli fai la sanatoria, perché te dovrebbe, diciamo, sanare una questione dei debiti rispetto agli oneri accessori con te, non ha senso. Per cui anche su tutto questo piano qui c'è un certo fermento nel quartiere. Beh sì, insomma, mi sembra che sono presi da una vera e propria tenaglia a questo punto di vista, insomma, gli inquilini senza titolo che si trovano a usufruire giustamente, insomma, di queste case che rimarrebbero sicuramente senza inquilini, dato che il mercato è quello che è, nemmeno le operazioni, diciamo, di cartolarizzazione, di svendita del patrimonio sono riuscite, così come gli attori che li hanno messe in piedi prevedevano. Volevo anche chiederti se la situazione è tranquilla e lo permette, a questo punto, insomma, a che punto è questo processo, diciamo, di come dire, costituzione di un coordinamento antisfratto che coinvolga però in maniera continuativa anche le famiglie che sono proprio al centro, insomma, della vertenza. Ma nel quartiere, diciamo, questa costituzione di questo comitato va abbastanza bene. È chiaro che è legato anche un po' a quello che succede, nel senso che c'è anche una reattività delle persone rispetto alla situazione, quanto è più o meno, diciamo, impellente, cioè quanto anche la pressione dell'INPS per rientrare in possesso di questi appartamenti è forte. E noi stiamo cercando di rilanciare la battaglia, anche perché quello che diciamo sempre è che più tardi si interviene, più è difficile poi andare a ottenere dei risultati. È chiaro che nel momento in cui hai la casa all'asta diventa complicato ottenere una regolarizzazione, no? Mentre in una fase attuale, secondo me, esistono diversi margini per la possibilità di ottenere una sanatoria. Noi chiaramente stiamo rilanciando anche tutte le mobilitazioni che ci sono a livello cittadino legate ai movimenti di lotta per la casa, la manifestazione c'è stata lunedì scorso in Campidoglio e quelle, anche l'incontro che ci sarà giovedì in seguito alla manifestazione alla sede dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. È ovvio che la battaglia per il diritto all'abitare non è una questione che si può affrontare in maniera settoriale, ma bisogna in qualche modo coinvolgere e unire tutte le vertenze, insomma, quelli degli inquilini regolari, quelli degli inquilini senza titolo, gli occupanti dei palazzi abbandonati e chi è proprio in mezzo alla strada. In questa ottica, per noi anche l'appuntamento del 18 e 19 ottobre, il doppio appuntamento, è un passaggio importante in questo senso, quanto quelli sono momenti in cui si ritrovano lotte ancora più diverse, non solo per il diritto all'abitare, ma anche per contro le grandi opere, contro le devastazioni territoriali e tutto il resto. Senti, va bene, allora diciamo che adesso ha detto siete in attesa dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario, ma diciamo considerando la consistenza della partecipazione al presidio, c'è da immaginare che, insomma, si possa anche soprassedere per questa mattina allo sgombero e che magari ci sia una sorta di proroga, no? Ma io penso proprio di sì, direi che il numero è sufficientemente, come dire, dissuasivo per quanto riguarda la possibilità di effettuare questo sfratto, per cui sono fiducioso che la mattinata si concluda bene. Perfetto, e allora nel caso un po' lo scenario cambi per qualsiasi evenienza, ovviamente noi siamo qui, comunque ci risentiamo più tardi, anche se viene l'ufficiale giudiziario, insomma, vediamo un po' di capire come è andata a finire la questione, ok? Va bene, grazie a tutti e un saluto, a presto. Ciao ciao. Ciao. Suppose you never ever call.